l'ammissione di un fallimento, di una strategia che non ha portato a nessuna spallata e a nessuna crisi del governo Prodi. Oggi si cercano nuove strade e noi siamo qui, sfidiamo il centrodestra sul terreno delle riforme, a partire da quelle istituzionali ed elettorali. Abbiamo avanzato una proposta come Partito Democratico e stiamo discutendo con tutte le forze del centro-sinistra e poi anche dell'opposizione. Non è un modello assunto dagli altri, è un'idea originale che pensiamo possa risolvere i problemi della frammentazione del sistema politico italiano.